anche se secondo te stai salendo, ma è più basso. La zona che a me mi può dare fastidio è su, al centro ecologico. Allora lì sì, lì è più alto di me. Ma ce la giochiamo lo stesso. È un beato il mio palazzo, è un beato. Ti ripeto, è alto e poi è molto aperto. Non ho niente che mi ostacola, capito? Tutto lì. Vabbè. Comunque, ripeto, l'importante è che ci sentiamo e riusciamo a chiacchierare. No, non è quella la difficoltà. La difficoltà sono altre. Avanti, Anto. Stavo leggendo. C'era troppo mazzo, capo, che è un bel alto. Ma no, il problema di loro è che non sono in alto. Quello di Pomponio non è alto come palazzo, cioè quello di Roberto non è alto, e lì invece c'è quota, è diversa la storia. Infatti te lo sto dicendo, tant'è vero che i risultati arrivano, perché loro ristano non ci arrivano, io sì, capito? Vai qua. Stiamo andando con questa radio, non è che stiamo andando a ricevere con un K, con una radio professionale. Io ormai non so più niente, quindi ricevo con questi baracchini vintage che hanno una ricezione favolosa, ed era con lo smitter dell'Inuit, era Santiago 8, capito? Santiago 8, e lui a me mi ha dato 9, addirittura con picchi positivi quasi a più 5. Non ci arrivo, abbiamo già fatto le prove. Vai Anto, sto mandando un messaggio. Perché è che non ci arriva, che non ho capito bene? Né Roberto né Antonello. Sì, no, non ce la fanno, no. Non c'è altezza, capito? La paratina è troppo bassa. Ci difendiamo come possiamo. Io adesso non ne so dove mi possono sentire veramente. Non lo so. Non so fin dove arrivo, io non lo so. Al produttore si so che arrivo, mi sento anche un po' Alghero, però io non so dove. Al mio punto più forte, da questa parte qua, io ci ho favorevole, è la zona di Via l'Italia, qua a Sassari, in quella zona lì arrivo sparato. K, tu pensa che io da Claudio arrivo 9.30, da altre Fonte Dolce arrivo, cioè che è una zona di Sassari, in periferia arrivo una fucilata, arrivo anche 9.50, 9.60, ti puoi immaginare, arrivo fortissimo. Purtroppo cosa vuoi fare? Sono cose che succedono. Ecco, evidentemente era un bel fragile, perché questa qui mi pare che era più vecchia di quella che c'era. Oh, è vero, no, non è così. Se ce l'ho, cosa mi ne ha fatti? stacco e vado a cenare. Se ci siete, ci sentiamo dopo. Ciao Chiodo, ciao Massimiliano, se c'è ancora, non lo so. E ciao anche a te Antonio, allora, cambio per Massimiliano, per me QRT, ciao ciao. Scusa che ero in bagno, capito, non vi ho avvisato. Cappa, io sono qua, dai, ok, poi anche io mi sacco, dai, vado a cenare anche io, va. Va bene, ciao Antonio, ciao Chiodo e ciao a tutti quelli che stanno ascoltando. Io non so se riprendo dopo, va, ma non credo che tu domani ci lavora. Va bene, ok, di nuovo, buona serata e buona carica a tutti, ciao. Massimiliano e a te, Chiodo Argento e a Caccarodio. Tutto a tutti. Prega, Massimiliano! Chiodo Chiodo. Un attimo, facciamo il cuore X, ci sentiamo dopo. Mamma mia, come è buono! Binario 10, ora. Andiamo bene, andiamo, fuori! Belli bella! Sì, stavo mettendo a posto il Walkman. Belli bella! Aspetta un attimo, sto sistemando un paio di cuffie. Cava, cava! E la bomboletta, vera, Bulbo? Oh, bomboletta, ma spray! Sprite. Attento, bomboletta spray. Vabbè, com'è l'Inter? Perdendo sta. Ma secondo te? Vincendo sta. Ah, 2-0. 2-0, ma se lo potevamo fare 2-0. 2-0, 2-0, ha segnato Lukaku proprio un secondo fa. Capite, c'è 2-0. Ah, sì, 2-0. Un bel gol anche ha fatto. Ma te l'avevo detto, passava prima oggi. Dai, ciao, quest'anno è meglio dell'anno scorso, di 2 anni fa. Ehi, manca paragone. Mammolina. Ma Antonio, oggi si è trombito, Babà. Mi sa che oggi ti tocca. Un comodo. Attento, Babolino. Mi sa che oggi ti parlo delle cuffie nuove, la trocchetta. Le cuffie? Sì, ho preso queste qua della Qui Live. Sono buone, ci devo qualche anno anche. Diciamo che l'altro giorno, siccome il capo mi tocca quando appoggio al computer così, ho trovato la troventella, l'ho agganciato col piede, ho dato una strattonata. Sicuramente non sa c'è il filo dallo spinotto. Ma il cavo lungo c'hai? Anzi va giù bravo 5 metri. Ah, sarà fai 2 metri. Ti compri lui il. Da Fugiaro vendono il barilotto maschio, capito? Lo innesti e te lo allunghi. Io l'ho allungata e vado dalla stanza a fare. Almeno non strappo il filo, perché un sacco di volte l'ho strappato anch'io. Okay. E ci conferma. Bambolino! Troppo alto? Oh, vabbè. messo, come messo, da vicino, da 1:30. Proprio con questo auto sono fatto, da vicino non vedo niente. E come me, per metro pesci allora? Sì, quasi 2 metri. E anch'io, quasi 1 metro, è come brunetta insomma. Un metro è una dedichetta. Voi siamo 1,50 m. Siamo tutti in male però così, Lo so, non sono cose belle. Mi metto con la lente di ingrandimento, frate, vedi che casino. E vediamo, veniamo, va. Pensa che io ho un paio di occhiali, l'avevo pagati 150 euro. Beh, li hai persi. Ah, sono tutti rovinati, e quelli non mi bastano più. Cioè, quelli è 1,2, o da 1 forse, boh. Andiamo che andiamo. 150 euro di PC. Fra noi. 150 euro la paga un comodo. Ma perché no? Non andavano bene. All'inizio sì. Adesso non ho più classi, vogliamo più da 1,5, dai. E io mi pare ce li ho. Per vicino ce li ho da 2, mi pare. O da 1,5 anche mi sono, boh, non mi ricordo adesso. Mi manca 5 centesimi a un occhio e 3 centesimi a un altro. Ehi, allora vai meglio di me. Per il tempo vado. Alla grande. Io proprio no. Da vicino non ci vedo la mazza. E poi sa 2, io allora. Quel casino. Io prima ci vedevo un bel bene, allora vedo più una mazza. Ma come ti fai la vedi? Ehi, a pure in moto sì, Per il resto non serve più a niente. Questo bambolino si è dormito stanotte. Bubu, attento, mister Bombolo. Mister Bombolo. Ulla. Stavate le cuffie, va? Oh, ma c'è a posto lì. Via. Chi te lo sa la terza volta che ci stiamo? Ma poi che cosa fa? Ci rompa. Cendino, che c'è quella pattina di plastica sopra. Solo non attacca, come si dice, non attacca il vaffanculo, non attacca lo stagno. Ah, non attacca lo stagno. E poi non salta, ho capito. Quella carta inventa, fatici di gabbo, mamma mia. Ma c'è per durante non sono. Sì, per il momento sì. E magari può pure maneggiarmi. Vai a Lazio. Ah, vai, no, manco il campo dello guru dell'Inter. L'ho detto da ieri io, che vinceva con la Lazio superiore. Lazio c'ha un buon attacco, ma una difesa. Cazzo, mi parla l'uomo così, porca paletta. Ma dove che stai saldando? Non ho capito. Dov'è che sto saldando, hai detto? Ehi. Non ho capito, cosa vuol dire dov'è che stai saldando? Che cosa stai saldando, mi? Il capo delle cuffie, là. Mamma mia, quello fine. Ehi, proprio quello. Oh, manco un occhiale, vuoi quello liscio? Ehi, mi sono aiutato con la lente, là. Vedi, con la lente sì, se no non lo vedo manco da vicino io quello. Ehi, claro, se non usi va, non è facile, poi non è che un settimana vai, però devi scaldare i fili, giusti, cioè non devi proprio fare veloce un accendio, tac, se no mai lo bruci troppo. E poi mettergli lo stagno, altrimenti non ce la fai. Io lo so, sì, infatti a me. La cosa principale è saldare quei cosi così piccolini. No, io sempre faccio micro saldature anche, quelle anche del... Faccio un esempio, i tasti del telecomando della macchina. Che sugar. E allora io avevo più di me tu. Ehi, ma con la lente però, se no ce la faccio. Vabbè, con la lente o senza lente. Basta che metti le lenticchie e già va bene lo stesso. Vabbè, se avete aspetto un attimo, perché no? Oh, ma funziona, il microfono. Il microfono è macco. Ah, funziona l'occhio, non mi ricordo come funziona. Carità, però con quello è un altro. Anche se è graffiato non mi interessa, mi serve la circuitino che c'è dentro. Ehi, già va bene. Ah, dove è il vostro giro? Subito, so. Ovvi non rimane, oh. l'italiano non rimane, vedi. Ehi, alto le balle. Ma che cosa sta domani, ci piace a Brughi. Gappa. Dai, devi andare domani. Tagliare l'erba a tuo zio, devi andare domani. E allora? Dai, almeno faccio la mattinata. E oggi mi dà un po' di frutta. Allora, già è buono, tutto buono, eh. Beh, c'è cuparata, mandarini, arance. Poi ha piantato le fave. Ma le fave te fresche? E allora? Buona radio. Non li ho ancora visti in circolazione. Beh, forse sono in ritardo. Sì, bisò. Guarda, c'è un tipo che si mette vicino a Bricomen. Dalla parte... Non so, tu da dove vedi per andare a Bricomen, dalla parte del mercato. A volte da lì, a volte anche dall'altra parte, dalla 131. E comunque si mette proprio lì, dalla parte del mercato, giri per entrare da Bricomen, lì sulla, lui si mette sulla destra lì, un tipo grassottello. Io ho visto oggi anche asparagi. Favette fresche da mangiare fresche. E allora, fresche da mangiare toste. Non la mangiano, mandami se ce li ha. A me piacciono un bel, ne mangio un bel, io di favole fresche ne mangio un bel. Poi c'è il padre di Maria, le fa, le mette sott'olio, ma cazzo, sono anche zombone, quelle piccole, le più piccole però, ma qua, uno di barattoli me l'ha giù mangiato, chi si barattoli le mani? Maria le assaggia, non è che ne fa ghiotta. Già c'è la roba buona, già ho visto, già sapente a fare i gocci. Io giro lì in campagna, capito? Se lo tolgo, lo scaldo la maglia devo piazzare. Dove? Lì a Canica? Yes. Ma all'inizio o salendo dove c'è la chiesetta? Molto più avanti della chiesetta, molto, molto più avanti. Ma andate in laino. Io ce l'ho lì a balcone, praticamente hai visto che c'è la chiesetta proprio. Quando tu stai salendo per Monte Oro, a destra giri c'è la chiesetta e poi inizi a salire, sicuramente lì sali tu. 50 metri a sinistra c'è quella casa rosa. Quella casa, boh, non ci ho fatto mai caso qua. Vabbè, ce l'hai tu la casa lì? Mario con in aria. Ah, ho capito. Se vendo qua, lui mi trasferisco e finisco il pezzo mio. Se ce la faccio entro quest'anno. Se ne vai là? Allora no, capito. Ma continuo a pagare 120 euro al mese di condominio? No, basta, mi sono rotto le balle, lui. Dall'87 ci sono io qua, mi sono mancato un paio d'anni, ma non si può. Era 90, poi è passato a 100, adesso direttamente da 100 a 120 euro, basta, mi sono rotto le balle. Ma se la gente se ne sta andando, è troppo, no? Ci sono bei lavori da fare, un bel manutenzione, un bel ricco, è troppo grande il complesso, basta, mi sono stufato. C'è una tua, ti rendi conto, in un anno io dopo 1200 euro, ma stai scherzando. Cazzo, in mezzo anno 26.000 euro. Ma ti rendi conto? 1200 euro all'anno io me ne risparmio, cioè lì non pago niente, non pago acqua, non pago niente, pago solo la luce. E boh, casa mia come questa naturalmente. Contatti ne ho tanti, stanno venendo, adesso addirittura mi hanno dato quasi l'ok, sto aspettando il 18, devo andare a risposta alla banca a questa ragazza. Capito? Se la banca mi dà l'ok è fatta, basta. Dammi un paio di mesi di tempo, 2 o 3 mesi, per sistemare le cose, come do proprio una sistemata là e me ne vado, poi me la faccio piano piano. Basta Lucio, è troppo, quando è troppo è troppo. No, paghi troppo, il cazzo. Sono per avvai. Poi è stata presa quella apposta per andarmene anche io, però siamo già 2 anni così. Un investimento, ma ci ho giocato tutto praticamente per comprare lì, però siamo già 2 anni così, decidi, adesso basta, abbiamo deciso tutte e 3 assieme, abbiamo messo in vendita. L'avevo tolta dalla Tecnocasa, adesso gliel'ho ridata, più ci sto lavorando io, insomma, sembra che stia andando bene, dai, vediamo un po'. Comunque entro quest'anno penso di andarmene da qua. Troppo 1200, cioè 1200 euro l'anno, 120 lo dico, ma Maria paga 27 euro di condominio. Sì, ma questo è grande. 120 euro gli appartamenti grandi, poi non ho capito. 120 euro. E 95 euro quelli piccoli. Una grande cifra. Basta così, io sono arrivato, già dato, finito. Infatti mi ho chiuso anche il condominio perché era 3 mesi che non ci passavo. Venerdì mattina gli ho fatto un bonifico, basta, mi ho chiuso anche il condominio. Poi adesso aspetta di imbazzinare, se non riesco a andare mai quest'anno guai. Hanno deciso di fare i lavori, quei lavori straordinari che ci sono delle facciate, minimo sono 300.000 euro che ci hanno chiesto. Perché altro fa? Ma se la tua non è più grande di quella di Marina. La mia? Sì. La mia è 85, 90 metri quadri. Quella di Marina è 88, mi sa, senza i terrazzi. No, questa è senza terrazzi, 90 metri quadri. C'ho 3 stanze da letto, bagno con antibagno, salone, cucina e poggiorno. Invece Marina c'ha, vabbè, soggiorno, 3 stanze, doppio servizio, 3 terrazzi. 3 terrazzi, è grande quella casa, è un bel grande, cioè, 7 terrazzi 88, sì, vabbè. Ma già l'ho vista, è bella anche, una bella casa. No, questo è l'unico che sono a entrare. Poi io prima di tornare ad abitare, quando sono molti i miei soci, abbiamo per ristrutturato. Capito, la casa è nuova, quindi non è che non c'è niente da fare qua. C'è tutto nuovo. Però basta, finito. Lui, mi ha voto. Io entro quest'anno, ma devo andare, sto buttando via ogni mese 120 euro senza lavori extra che ci sono, perché il mese scorso, oltre il condominio, ho pagato 460 euro che hanno fatto tutti i ripristini dei corduri, dei poggioli, delle balle e poi va, capite? E abbiamo pagato 400 euro a testa. Che? Non so. Lui che è una casa in campagna, e non paghi, sì, la paghi, la buona paghi, o meno paghi nel condominio né niente. Ma oh, poi è grande, è bella, non mi familiare, mi lupo. È stata comprata, loro c'hanno tutta ristrutturata, c'è di tutto, c'è tutto, c'è anche la piscina, così, capito? Però la parte mia è ancora da finire, ho dato priorità a lei, giustamente, che l'aria non abita più qua. Viene, sta parecchio, tanto qua, però non abita più qua. Io ho capito. E se vuoi fare? Me ne devo andare. Me ne devo andare da un'altra, mi. 50 metri dal ripetitore della Raimi, quello alto mi. Di fronte a Monte. E corri, avevamo fatto una prova una volta, te lo vi. Che vuole entrare, va? C'è gente che vuole entrare. C'è qualcuno che vuole entrare, puff. Ma te entrassi, vuoi entrare, invece sovramodulare. Poi quando sovramoduli a loro, allora si incazzano. E se vuoi fare, poi via. E fate rivolta che sono tutti uno vicino all'altro, poi non arrivi, no, che era l'andricca. Io già arrivo all'andricca. Vabbè, anche io, tranquillo, ma per dire, non ho battuto. Sono tutti forti, quando ti arrivo, ti passo, ti crepo, sono tutti uno attaccato all'altro. A voi non intende manco chi ce l'ha, chi intende, basta, lascia perdere. Cioè, stasera, amici della Massimiliano e Bombo, quanto sono arrivato a Oristano, 9 più 5. Cazzo, non te ti pari. Ma qui c'è a fare capito, voto, liscio, non è problema. Arrivo col K, con 20 watt. Comunque, c'è che arrivi 9 più 5. C'è qualcuno che sta disturbando qua. Vabbè, sono 10:30 di notte, qualcosa ti devo, se ti devo qualcosa dimmelo. Se disturbano a me vuol dire che già lo sai da dove è, no? Una di migliaia di balle, vedi, questa fa piazza pulita e d'ora, gente gelosa, cazzo, gelosia si rimangia. Sì, no. da, io ti saluto, se no da voi domani, ma quel canonati mi riparte di Pisa. Vai, vai, tranquillo, sono qua, sto andando a televisione, dai. Già, già sono qua, non ti preoccupare. Ciao, ciao, buonanotte. Yeah, buonanotte, caccia. Dani, Orissano, ci sei? Sassari chiama, Dani. Attento, Daniel. E tu non lo festeggi? Ehi, stanotte mi aggancio anche io, a letto però. Ehi, va bene. E via, e va bene. Ognuno lo festeggia come può. Senza pigiama, sì, c'ho il pigiamone e la felpa pure c'ho. Sta chiuso, è 3-1, non è nuda, alla fine mi da zinco. Enrico. Ehi, a Luca sto dicendo, ha già chiuso. Chi Luca? Luca Manicomio. Ma perché Luca c'è? Io non ho sentito nulla. Sì, stava parlando con me prima di entrare tu. Cappa. Capito. Ehi, ehi. Stasera non sentivo nessuno, avevamo io Massimiliano, Mavorino, poi chi c'era? Ah, Danilo è entrato, Luca Flip. E mi dici nessuno, a voi c'era gente. Io mi sono avvicinato un attimino con Mario in campagna da mangiare i cani, e poi siamo tornati a casa, capito? Ma adesso se ne andranno, quindi c'è dormitelo di vano e tu mi dai il culo e me ne farò la radio. Aspetta un secondo, Cla. Un secondo. Stanno bussando, aspetta. Stanno bussando? Chi è? Oi, chiodo antirruggine. Qua siamo, c'è anche Gianni Occhio Rum, ci hanno bussato, Castellete e mezzo, dove siamo noi? Sì, io a quest'ora non potete staccare tanto, e chi c'è da ascoltare? C'è nessuno, già arrivi bene lo stesso. C'è sempre 9.20, claro. 9.15 abbondante. Da Gianni arrivi lo stesso. Sì, chi non ti ascolta bene la parte dei punti, Giulio, Massimiliano, vedi che anche D'Antonio arrivi Santiago 5, da me arrivi fortissimo, non c'è bisogno, ma anche voi chiedete a quest'ora, sono le 10:30. Ciao, chiedo G, K. Ah, vabbè, stai scendendo molto bene anche tu di radio, sei molto forte. KK, che microfono stai usando? KK. Si sposa molto bene quel microfono con quella radio, vero? Si conferma, perché io cosa sto usando? Io sto usando l'Inuit con l'MB+4. MB più 4 originale, non l'ho toccato, non ho fatto niente. Il Galaxy con la Stratti. Mi hanno detto che, infatti, sono un po' deluso, perché mi hanno detto un po' tutti che questa radio è molto meglio del Galaxy col Tane più 3. Secondo te, Claudio? Sono comodo e attacco il DAC, intanto è ancora acceso, è bello caldo. Adesso metto il Tane più 3, che lo cambio. Questo è l'Inuit con l'MB più 4. Mi hanno detto che è superiore alla Galaxy, non ci riesco, non ci credo io, ma vabbè. Aspetta già che come motor radio, dai. Quindi adesso c'è un nuovo pupillo a fare andare io qua. E io no, c'è una radio che riescono bene. Sì, il DAC diciamo è uno delle perle vere, diciamo. Il DAC è secondo il Galaxy. Questo è il DAC, sempre col Tane più 3, non so, però io questa radio che ho veramente escono bene, anche il Midland, io stavo usando il Midland tutta la sera, l'Inuit esce bene, poi c'erano tutti i microfoni buoni, nuovi, ma anche l'Inter che esce bene, sempre con l'MB più 5, il Pony, quel Courier, te l'ho detto, quel Caravelle 2 esce molto bene lo stesso. Il patch sto usando poco, non mi piace la modulazione, non riesco ad abbinarle un microfono come i cristiani, non lo so, vabbè, comunque, questo è il DAC. Avanti Gianni. E a te, vabbè, si sente, c'è la modulazione metallica ma molto calda, infatti sei un microfono di caldo. No, tu sei il caldo, io sono il freddo. Il dicio dice Gianni il caldo, non Claudio il caldo, quindi io posso essere Claudio il freddo, vero Claudio? Diciamo che con la temperatura che c'hai tu lì, secondo me sei il freddo anche tu. Io sto cercando un tamer per questo apparecchio qua, un tamer oppure qualche microfono che esca bene, dai, perché adesso ce l'ho posticciamente questo astatti che sto usando. L'altro l'ho dedicato tutto ancora, l'altro microfono. Grazie, io mi sono pentito aver veduto corrispondere 500 dalla Turner, già. Aveva una modulazione spettacolare, che è un bel ragione, magari lì da te perché si abbassa l'asta, ci stava bene, ma qua mi prendeva troppo posto, ma guarda, una modulazione eccezionale aveva quel microfono. Mi sono pentito di averlo dato, cazzo, mi si è attaccato alle balle, porca miseria ladra, avanti qua. Ho capito. Con le radio lì, a volte le tocchi poi, un casino. Io del Pony ho fatto solo la regolazione, sì anch'io dello Smith, no dello Smith. Cosa ho fatto io sul Pony? Ah, della modulazione, che me l'ha detto tuo padre. E basta, l'ho tirato sulla LC, adesso esce molto bene anche col microfono normale. Però non lo sto usando, la verità. Io guardo, da quando c'ho il Galaxy, sì, faccio girare un po' sia il Pony, cioè sia l'Inuit che il Midland, qualche volta anche il Pony, il DAC, ma a me piace la ricezione che ha sta radio. Ricezione che ha il Galaxy è spettacolare, credimi. Il DAC funziona bene, bellissima ricezione, però il Galaxy io sento qualcosa in più, non lo so, avanti già. Il Galaxy è stereofonico come ricezione, c'ha un volume di ricezione che è allucinante. A toccare le parazioni che sta facendo, perché c'ho l'apparecchio da regolare figlia. Ehi, era, va bene, ciao. Come stavo dicendo, cazzo, te lo vuoi dire un'altra cosa? Non l'ho detto già. Ma anche tu già picchi in modulazione così alta di questa radio, ho la vaga impressione che l'hanno spinta sta radio. Allora, gli ho attaccato l'ovattimetro stasera. Questa radio, non questa che sto usando, questo il settone che ho io. L'ho attaccato l'ovattimetro stasera. Cioè, da 10 watt di portante muta, quando fischi va a 20 watt. No, no, il mio no. Il mio è 9 watt che rimane fisso. Non ha picchi di modulazione? No, no. Picchi di modulazione rimane fisso. Non ha picchi di modulazione, rimane proprio fisso. Infatti l'ho detto a Massimiliano, sicuramente l'hanno appena dato più di gas sul modulatore, boh. Ma è una scheggia, madonna. Ma l'hai visto quel mostro che ho preso, con la tre ventole? Tu immaginati, c'ha dei picchi di modulazione con quell'amplificatore, che è una cosa pazzesca. Non so da me come sia, se è un attacco, però così normale, è così. Boh, questo c'ha dei picchi su wattimetro, no, wattimetro esterno, ma si vede anche su quello della radio che si sposta un bel. Frattone, voglio togliere il dubbio, sul parlato no, da 10 va a 12, 13, non di più, 12 troppo, che è anche normale, ma se fischi c'ha dei picchi di 20 watt, e io ho il RF power, il power ce l'ho a metà e non ce l'ho al massimo, ce l'ho a metà, lo tengo sempre a metà, non lo tengo mai a manetta. Avanti Claudia. Quello è proprio gemello del Ruiz, gemello, cioè due lati in legno e poi la cassa in ferro. Quello è il Courier, Courier 2. È abbastanza, perché la Courier ne aveva fatto due a tuo padre, mi sembra, però erano tutti in ferro. Questo è proprio uguale al Ruiz, uguale spiccicato. Manca uno strumento, gli altri ce l'ha, poi quando schiacci la portante va, si appare la scritta rossa on air, è molto bello anche quello lì, e c'ha i laterali in legno e poi è tutto ferro, alluminio, non lo so, tutto cromato, davanti è proprio le stesse cromature del Ruiz. E quello sai perché non lo sto usando io, lo sai, perché c'ha il connettore a puntale, e ce l'ho, me l'ho comprato il connettore, però non so che microfono abbinarli, o ne prendo un altro di MB+5, oppure vado a trovare, c'ho anche l'SBM, c'ho l'SBM nuovo, da cambiare le connessioni lo stesso, ma io non ci vedo. Devo darle a Luca, però è sempre incasinato, sempre impegnato, adesso vediamo. Così facciamo andare anche quello. Quello è l'unica radio senza microfono. Avanti già. Oh Claudio, sono al telefono. Va bene, allora buona telefonata, dai, ci sentiamo dopo. Vai Claudio. No, c'è una roba rarissima quella. Caravelle 2. L'unica cosa che appunto tuo padre sa che gli hanno messo la tastiera dei canali, che non è la sua originale, quella del Concorde 2, capite? Infatti è più piccola, ci gioca dentro, ci gioca. Bisogna metterle il coso dei canali, chiamala come vuoi, la commutazione, quella lì, sua originale. Ed è nuova, non sai quanto è bella, nuova, Sì, me l'ha detto, però non so cos'è che doveva fare, boh, non lo so, non mi ricordo esattamente. No, ma poi quell'acqua lì, soprattutto la smeraldina, quelle acque lì, fanno bene per chi soffre di calcoli renali, per chi è a posto di reni, fa male, capito? Fa male. Scusa, ho sbagliato il microfono. Ma bisogna stare attenti con le acque, oggi non si scherza. Ma l'hai vista la bestia, l'ultima che è arrivata? Ti mando la foto, la può vedere babbo? Ti mando una foto, mi dici cosa ne pensi. Io non c'è altro, quasi 50 metri sono, 45 metri. Ma io dal mio tetto quei due palazzi li vedo normalissimi, non sono. Tu magari da sotto li vedi, però se tu consideri al piano stradale dove sono io siamo a 287 metri dal livello del mare, conta altri 45 metri di altezza. No, io la supero, la supero di brutto la collinetta di Scalaiccio, la supero proprio. Tu immaginati che quando parlano da dietro le gallerie, a me mi arrivano a fondo scala, e Sassari non sente niente, dice ma con chi stai parlando? Come per dire, fortunato che sta rientrando da Cagliari, dietro lì la cimenteria, non sentono loro, a me mi arriva a fondo scala. Ricevevo tantissimo, io ricevo tutti i punti di Monterraggio, che sono a Monterraggio, lo ricevo con l'antenna in gomma, col portatile in gomma, fate il conto. Ultima posizione, vabbè, però io Claudio entro quest'anno me ne voglio andare da qua, perché abbiamo già un progetto, già da 2 anni lo voglio portare a termine. E spero quest'anno di farcela, guarda che te l'ho mandata. Prendi il telefono di babbo e guardalo, dimmi cosa ne pensi, quello è l'ultimo arrivato. Allo stato solido, il più grosso che c'è della RM Italy. Ecco, una bella bestia, guardala bene, apri bene la foto, una bella bestia. Ecco la 24 volte, grazie a Massimiliano e a Gigi Vulcano mi hanno fatto... Ho fatto 2 alimentatori da 50, ne hanno fatti diventare a 24 volts e quello è a 24 volts, ma è una cosa allucinante. Sembra quando sta partendo l'elicottero, quando lo accendi, sembra l'elicottero in partenza, ne fa poco di casino. E c'è un altro che è un po' più piccolo, ma non si allontana molto. Non si allontana molto quello a 2 ventole, però questo è, madonna santa, c'ha un preamplificatore d'antenna automatico, poi c'ha il modulometro, ti dai picchi a led, si accendono tutti i led, ti dai picchi proprio della massima spinta che stai dando con la radio. Bello, bello, c'ho un buon amplificatore, veramente, sono contento. L'ho messo lì, all'angolino. Quando serve lo usiamo, quando non serve rimane spento. K, via. Ehi, ma ormai le valvole, anche 200 watt consumano corrente. Ormai i lineari sono allo stato solido, non c'è niente da fare. A parte quella potenza la dà un B300P, se in buone condizioni, che è a posto, io ce l'ho e da 180 watt. In quinta marcia, in sesta marcia da intorno ai 220 watt, quindi. Però alimentato con un baracchino lo tieni in terza marcia, un'ottantina, 100 watt, ed è più che sufficiente, 4 watt d'ingresso, regolato, non hai bisogno di valvole, di accordare, di niente, lo accendi e lui sta andando, capito? Oramai è così, guarda, ti ho mandato quello valvolare chiuso, guarda quanto è grande. Ed è sempre lì fermo, ogni tanto lo accendo, ma giusto per le valvole, e quello ne ha 2 però di valvole, ne ha 2, ma non è da 400 watt, quello c'ha 2 tubi, c'ha 2 8 5 7, sono 2 tubi, diciamo che sono grandi quante una bottiglia di birra, capito? Quanto il fondo della bottiglia di birra, 2 cose così sono. Ed è sempre spento, non le uso io a valvole. Ho preferito comprare, vabbè, l'anno scorso è capitata l'occasione, ho preso quello più piccolo che lo fa la Bias, e adesso ho preso questo dell'RM Italy, però c'ho anche quello valvolare, ma non lo uso mai, e quello schicchia, quello vedi che è a fianco dove c'è il K, quello è del K lineare, quello c'ha il cavettino suo del René, e quello lavora col K perché c'ha 100 watt d'ingresso quell'amplificatore. Si è sciolto un altro di bianco, sono 93 anni. No, oh, non è vintage quello, no. Ti sembra vintage? Le grigie ok, ma non lo vedi com'è. Quello è il G27S, praticamente è il gemello del 911 della Kenwood, l'L 511, capito? Cioè l'FL 911. Va molto bene, io sino a qualche anno fa lo usavo quello, ne ho anche un altro dentro l'armadio che è della IAS 2100Z, non ti ripeto, non li uso perché consumano una barca di corrente. È preferibile avere un amplificatore allo stato solido che vada a 24 volt, naturalmente non a 12, se no non viaggia. E quello lì 4x3 12 mi sono 400 volte a potenza, mi ne ha 3 di potenza, sono 1200, puliti. In AM picchia parecchio, l'ho provato oggi. In SSB scala 1000 li supera di brutto, capito? Quindi è già, intanto è un amplificatore a stato solido HF, non è da giocare, costa una barca di soldi, ma è un HF, capito? Però fa anche la 27, quindi se serve perché non usarlo? Intanto io oramai qua sono, non è che mi posso spostare più da nessuna parte, tutto qua, ho fatto un po' di pulizia, tutto quello che ho recuperato in soldi mi sono preso quello lì, già serve. Già, certo si può diminuire, tutto si può fare. Non mi ricordo adesso la resistenza variabile qual è, non me la ricordo, però se ti guardi lo schema mi pare che era il, c'è scritto comunque RF Power, ma non mi dire qual è la sigla perché non me la ricordo assolutamente, però c'è, se ti guardi lo schema c'è, si può ridurre, tutto si può fare, no, così neanche io, però ti ripeto, se vai a guardare il manual service c'è la potenza in SSB, come c'è quella in AM che fa MFM, poi c'è quella dell'SSB, sono due resistenze variabili, due trimerini che da regolare, ma gracchia in trasmissione o gracchia in ricezione, perché anche lì si può regolare, ci sono anche lì delle resistenze variabili che regolano la sensibilità del ricevitore, può darsi già, non lo so, guarda io il mio l'ho spedito venerdì scorso l'ho spedito io, non questo venerdì, venerdì scorso al centro assistenza, perché 10 anni che non le facevo niente, ho deciso di dare una bella revisionata, una bella controllata, poi quando arriva lo tolgo i coperchi, lo faccio del tutto riverniciare a Roberto, che ho già comprato la tinta, la Maxi Meyer dello stesso colore, comprata ma l'hanno fatta, lo faccio diventare nuovo, mi dura altri 10 anni, però ti ripeto, io su quelle radio lì, proprio sul 430 non ho mai fatto una regolazione, qualche regolazione sul 140 e sul 680 che sono molto più facili, ma sul 430 e 440 mai, capito? Però lo so che si può fare, perché me l'aveva detto anche Carlo che si poteva fare, capito? Quindi se guardi il manual service c'è la resistenza variabile da poter regolare l'SSB sia in ricezione che in trasmissione. È stata un po', come si dice, senza purada, però è molto bella, esteticamente molto bella quella radio, vuole ripresa tutta oppure mandata ad un centro assistenza e fate fare tutte queste piccolezze che ci sono da fare, questi allineamenti insomma, però esteticamente è una bellissima radio perché l'ho vista, è nuova, è stata tutta ripresa eccetera, c'è da fare qualche altra cosettina e pazienza, purtroppo ho già, sono radio vecchie e io ho 10 anni che la mia non la toccavo e le ultime volte che l'accendevo, perché la stavo usando poco con la scusa del 440, del 140 eccetera, quando ne hai tante una sempre lasci da parte, infatti ho deciso di tenerne una e mi tengo quella, ecco perché l'ho mandata a controllare, a fare tutte le cose che sono da fare e mi si spegneva, dovevo dare dei colpi, a volte non accendeva neanche, dovevi dare dei colpi, lo stesso, quindi mi sono rotto le scarpe, ho detto, siccome la radio funziona ed è perfettamente funzionante, la mando. Infatti il tecnico, quando ci siamo sentiti al telefono, mi ha detto, è immacolata all'interno perché riparazioni ne ha avuto pochissime, quasi niente, però mi ha detto, hai tutte le spinette che si muovono, tutte le saldature fredde, è tutta da riprendere, è tutta da rivedere, da riprendere. Ho detto, guarda, fai tutto quello che c'è da fare, quando è fatta la controlli, la vedi, la provi e dopo me la mandi, capito già? Quindi la stessa cosa dovrebbe fare lui, è inutile che sta a rattoppare a fare, la manda a un centro assistenza, la mettono a posto e basta, perché la radio è bella, non può dire che non è bella, nuova nuova. E questa è del Concorde, perché è più piccola e poi c'è una parte rossa dove c'è il canale 9, mentre invece quella là non ce l'ha, perché l'ho vista nel manuale, non c'è. Sì, è trasparente, trasparente. No, non va a vettatura, non va in casso. C'è la vettina che stringe, capito? No. Allora, questa che ho io, no, la manopolina è a vite ed è trasparente, ed è nuova nuova, anche molto bella, però non è la sua. Quella che va lì non è a incasso di quello rigato, no? Come quello, per dire, dell'Inuit, no? È piatto il coso, piatto, va sempre a vite. O l'hanno rotto, ma non penso. Si conferma, proprio così. Ma è piatto però, non è reclinato, è piatto, è proprio a stringere con la vite. Sì, rotondo, rotondo è più piccolo. Lo so. No, questo io ancora non l'ho manco usato, l'ho acceso, bellissimo anche acceso. Però l'ho usato perché in pratica te l'avevo spiegato, era una cosa che stavo facendo per uno, e invece non se l'ha preso, quindi me lo sono tenuto io. Non se l'ha preso perché ha avuto altri problemi, è fuori che sta lavorando, quindi mi ha detto, tienilo tu, vabbè, ce l'ho io. Pagato, se lo vuole me lo ripaga, se lo rimane qua. Però ho comprato proprio per lui anche il puntale, il jack che te l'ho fatto vedere, quindi vuole soldato i tre, poi c'ha tre fili, è una cazzata a farlo. E basta. E c'è da mettere la manopola sua originale dei canali, perché quella non è la sua. Io me ne sono accorto che non è la sua, da subito, capito? Comunque, dai, già si mette a posto anche quella lì. Non sarà un problema, no? Oh, ma c'è qualcuno sotto che sta parlando, boh. Come mi arriva, anche se arriva, se parla liscio. Mi ha detto, come fai a sentirmi se uso 2 watt? Ma io ti sento lo stesso, però. Ma quando mai a te non ti sente? Boh, mi sente anche così. Io sto usando 8 watt e mi sente anche così. Boh, intendesi, boh. Sta parlando, avesse con Giovanni. Non lo so già, non lo so, sì, me la ricordo, era tipo la Super Regibus, era. Però non me lo ricordo chi è, forse era il titolare, Sanna. L'ho avuta la Super Regibus. Io quando ero ragazzo ho iniziato a 14 anni ad usare la radio, avevo la KB23 con il Turner più 2 da tavolo e avevo la Super Regibus a casa di mia madre, capito? Sino a quando io poi mi sono sposato, ho lasciato tutto a mio fratello e lui non ne ha più voluto sapere. La mamma ha detto, toglimi questa antenna sopra il tetto, e l'ha tolta. Poi non so che fine abbia fatto quell'antenna. Il baracchino me lo sono portato via io, la KB23, che poi ho regalato a Giulio, capito? Con Becchino. Ernesto è mio cugino in primo grado, cioè secondo grado. Toccai, c'era Toccai, Corsaro Nero, c'era Francesco Brancardone che era presidente del Radio Club, allora c'era Delfino Bianco, Primo La Rossa, Alfetta, e ce n'erano a Porto Torres, RSI, che è il padre di Gavino, che modula anche lui da Porto Torres, c'era Francesco TM, e era pieno, era Porto Torres, era pieno, Gavino Migliri, Gavino Carciofo, che è morto, poverino, c'era Nasello che volta attorno, quello che c'ha le barche, c'era Rum, c'era Riviecio, c'era, ce n'era un sacco di gente, c'era quando ero ragazzo io, capito, tantissima gente, poi sono tutti spariti, adesso non c'è più nessuno a Polottorsi. ciao, avanti a tutti.